Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Facciamo subito squadra tra noi ammalati. E si forma un gruppo di 5-6 ragazzi. E la nostra conoscenza, grazie a cene consumate al di fuori degli orari di ospedale, grazie al cibo portatoci dai nostri familiari, si cementa fino a diventare una vera amicizia. Sono Marco, vivo a Cassina dei Pecchi e sono ormai in pensione con una moglie e due figli. Una delle prime volte che ho sentito raccontare l'idea del narrare le storie, avrò avuto tipo 25 anni, facevo l'attore, avevo seguito un giorno una lezione con un attore che parlava di monologhi, che però non parlava dei monologhi teatrali, cioè non il monologo di Shakespeare, di Amleto e del Teschio, parlava proprio di narrazione teatrale. Lui diceva un sacco di cose molto interessanti che adesso non starò qui a ripetervi, però anche molto molto dedicate al teatro, a quella parte lì del raccontare la storia in cui sei su un palco, in cui c'è della gente al buio che ti ascolta, eccetera eccetera. Lui però diceva tra le varie cose tre cose molto interessanti. La prima era che quando racconti qualcosa, in qualsiasi frangente tu ti trovi, al lavoro, a casa, che tu lo stia facendo per lavoro, alla radio, o che tu lo stia facendo come prassi di formazione aziendale, che è una cosa che si fa molto recentemente, lo devi fare come se stessi raccontando quella storia ad un tuo amico, cioè una persona che conosci e con la quale vuoi condividere qualcosa. La seconda cosa che diceva era: date gli estremi, settate il GPS, cioè dite dove eravate, dite chi eravate voi all'epoca in cui state raccontando la storia, l'episodio che vi è accaduto, insomma date un po' di dettagli sugli estremi del luogo e dello spazio. E poi diceva una cosa che secondo me è esattamente la storia di oggi, ed è: quando raccontate qualcosa e avete voglia di raccontarla, avete voglia che all'altro arrivi la storia, siate vulnerabili. Cercate di non avere paura delle vostre paure o delle vostre debolezze. Se ci siete, dimostrate che riuscite ad arrivare fino in fondo. Non abbiate paura di essere vulnerabili. Sono le 16:10 minuti, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno noi raccontiamo una storia, è un programma davvero semplice, è come dice Cruyff riguardo al gioco del calcio. Il calcio è un gioco semplice, hai la palla tra i piedi, se ce l'hai tu non ce l'hanno gli altri, giochi coi piedi, palla bassa. Questo programma è molto semplice, ogni giorno raccontiamo una storia, c'è una voce che lo fa, che è la mia, ma le persone che lo fanno sono tutti quelli che hanno voglia di partecipare. E se avete voglia di partecipare e non l'avete ancora fatto, noi siamo qui e aspettiamo le vostre storie. Inviatele all'indirizzo voisietequi@radio24.it. Sufficiente una pagina, se volete anche due, ma non di più, perché sennò poi diventa un problema. Noi le prendiamo, le guardiamo, le selezioniamo, le mettiamo in ordine e le mandiamo in onda. Tutti i giorni una storia diversa, tutti i giorni una persona diversa, qui in diretta alle 16 o in podcast sul sito di Radio 24. La storia di Marco però. La storia di Marco parla di vulnerabilità, parla della cosa più estrema che ha a che fare con la vulnerabilità, cioè con la malattia. Noi riceviamo messaggi e storie che parlano di malattia vissuta da sé e vissuta dagli altri. Molto spesso le mandiamo in onda, altre volte magari no, perché magari non mi sento io di farlo, perché non riuscirei a gestirlo, perché sarebbe troppo complicato. La storia di Marco è perfetta, ha una leggerezza, ma una leggerezza è un peso tale che sono perfette per questo programma e per questo tipo di storie. Marco a un certo punto viene colpito da una malattia e gli succede una roba che è la roba più brutta che tutti conosciamo. Deve andare in ospedale, stare lì, fare delle cure ed essere operato. Eppure in quel periodo, in quel momento, comunque vive degli attimi di felicità che lui dice non aveva mai più vissuto. 349-238-6666. Oggi parliamo di questo, parliamo sì di vulnerabilità, ma parliamo di quel periodo brutto della vostra vita che comunque aveva qualcosa di buono, comunque ha tirato fuori qualcosa di bello. Voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook, voi siete qui, R24 è il profilo Twitter. Matteo Caccia, semplicemente il mio profilo Twitter personale. Ad esempio Dimitri dice: una cosa che ho imparato in un periodo orribile della mia vita è stato che l'essere umano si adatta a tutto e che non è vero che chi coraggio non ce l'ha non se lo può dare. 349-238-6666, state lì, questa è la storia di Marco. Giugno 1986. Ho appena fatto una visita specialistica. Il medico mi ha dato il 50% delle possibilità di cavarmela. Rientro in ospedale, non quello precedente, e mi rendo subito conto, come mi viene confermato, che si tratta di una malattia che colpisce in prevalenza persone giovani. E noi facciamo subito conoscenza tra ammalati. Si forma un gruppo di 5-6 ragazzi. E questo gruppo, grazie a cene consumate al di fuori degli orari di ospedale, grazie al cibo portatoci dai nostri familiari e alla gentile concessione degli spazi fornitici dagli infermieri, si cementa fino a diventare una vera amicizia. Praticamente è stato un periodo molto combattuto, perché tra il male e però la possibilità di uscirne, per cui è stato abbastanza combattuto, però alla fine tutto sommato è andato bene. Il gruppo è formato da un vero trascinatore che ne pensa di ogni, tipo uscita dall'ospedale la domenica mattina per l'acquisto dei giornali, considerato che la domenica il giornalaio non passa. O cose tipo utilizzo della cucina del reparto per preparare cene, in modo da coinvolgere anche quelli che sinora hanno preferito trascorrere la malattia chiusi nella propria stanza. E poi grandi giri di pizze importate in reparto con l'aiuto degli amici all'esterno. Tutto questo sempre grazie alla disponibilità degli infermieri, che vedono in questo modo la possibilità di recuperare almeno in parte le nostre forze. La nostra guarigione prevedeva, alla fine dei cicli di chemioterapia, un intervento chirurgico abbastanza complicato per le nostre fragili condizioni di salute. Venivano a prenderci nella nostra camera con un lettino a rotelle per portarci alla sala operatoria, che non era sul nostro piano, e quindi utilizzavano l'ascensore. Ed era proprio lì, davanti all'ascensore, in quel momento, che ci presentavamo per cantare in coro "Uno su mille ce la fa" di Gianni Morandi. E non c'era cattiveria, vi assicuro, era solo un modo per esorcizzare un momento di vera paura. Passati, era l'86, quindi sono passati, se io non mi sbaglio, sono 14 più 14, 28 anni. E io sono in pensione, ero un dipendente di un istituto bancario. Insomma, morale, del nostro gruppo ci siamo salvati tutti. Di altri con i quali non eravamo così legati, alcuni, ma per fortuna pochi, purtroppo non ce l'hanno fatta. Capisco possa sembrare assurdo, ma ricordo ancora con piacere quel brutto periodo. Ed ora sono ancora qui. Insieme a due bravi figli ormai grandi, ad una moglie che mi ha sempre assistito con affetto, e al nostro gatto, Teo. Di solito, quando arriva una malattia, tra le cose che si dicono, spunta sempre qualcuno che asserisce che la malattia è parte della vita. Che è una delle cose che si dicono. Ma non so quanto sia d'accordo chi la malattia la sta vivendo, perché in fondo è parte della sua vita, e non della tua, che la stai dicendo e che non devi affrontare cure, terapie o interventi chirurgici. Certo è che se le storie di vita che arrivano quotidianamente qui, a questo programma, sono una mappa delle esperienze quotidiane, è innegabile che tra queste esperienze la malattia sia una parte cospicua e spesso nascosta delle nostre vite. Alcuni la nascondono, la malattia, come una forma di vergogna. Nel mio paese spesso succedeva che a un certo punto una persona sparisse dalla circolazione. Non si faceva più vedere in giro. Non andava più al bar o non accompagnava più i figli a scuola. E intanto, nelle case, iniziava a spargersi la voce che fosse malato. Questo portava immediatamente ad una forma di sentimento di pietà nei suoi confronti. Di pietà, ma al contempo anche di uno strano compiacimento. Mi spiego. Nel dirsi tra amici, a mezza bocca, magari durante un pranzo o durante un aperitivo, delle frasi che sfioravano l'argomento e poi però ne uscivano immediatamente dopo, c'era una specie di silenzioso e strisciante "fortuna che non è successo a me". o meglio ancora, a me non succederà mai. Ricordo benissimo quei dialoghi, sempre uguali. Hai sentito del notaio? Pare che non ci sia più niente da fare. Oh, guarda, mi spiace. Ma tu pensa, l'avevo visto un mese fa al supermercato. Eh sì, pensa ai figli. Oh, signore, vabbè, io vado a mangiare. Ciao, ciao, a domani. Quindi, proprio perché la malattia non la si deve raccontare, è un argomento da non toccare. Anche la persona che ci si trova dentro diventa improvvisamente difficile da gestire. Non sai più come rivolgerti a lui o a lei, perché quello è diventato l'unico argomento. Come se lui non mangiasse più come te, non guardasse più la squadra del cuore come fai tu, o non avesse una giornata fatta anche di cose semplici e banali, come le tue. Marco ha lottato contro la malattia e ci ha inviato questa storia. La storia di come da ragazzo stare insieme e condividere pezzi di vita normale con i compagni di ospedale, mangiando pizze e cantando canzoni, era stato un modo per uscirne. Ognuno ha il proprio, ognuno ha la propria storia e la propria sorte in dote. Ma comunque sia e comunque vada, auguriamoci buona fortuna. In casa, Marco, è in casa su un divano di un color salmone che credo solo negli anni 90. I miei genitori negli anni 90 ebbero il coraggio di comprare un divano color salmone che poi hanno fatto rifoderare. Marco invece c'è fieramente seduto sopra mentre accarezza con il braccio destro un cane che è pancia all'aria, proprio pronto per farsi accarezzare, e dal colore della pelle, della faccia, ma anche del segno dell'abbronzatura sotto la maglietta, direi che siamo in piena estate. Pronto, Marco? Sì. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Senti, mi perdonerai, vero, la digressione sulla fodera del tuo divano? Nel senso che no, è proprio... Tra l'altro mi piaceva moltissimo. Non c'è più, quindi? No, non c'è più, ho cambiato. Adesso. Ah, ok, perché non fanno più questi colori. Il salmone è stato un colore che è andato forte tra... Ti dirò, forse dalla fotografia il colore non viene proprio bene, non era un salmone, era un rosato. Ok, ti chiedo scusa a te e a tutto il Pantone. Senti, invece siamo in estate piena, direi, dal colore della tua faccia. Eri di ritorno dal mare. Vacanze. Marco, andiamo invece alla storia. Lo dicevo anche in apertura, non è facile... parlare di malattia. Non è facile in generale per nessuno, lo è ancora di meno se fai un programma che va in onda alle 4, e nonostante io non creda in quella roba lì, non credo che ci siano orari, modi e tempi giusti o sbagliati per parlare di certi argomenti, credo che li si debbano toccare quando si ha voglia di farlo e con il modo giusto. Devo dire che il tuo racconto era preciso, perché già instradava verso una direzione. Guardate, è stato un periodo di merda, però sono stato anche bene. Sì, in effetti, ecco, diciamo che l'hai detto proprio giusta. Cioè, il francese era proprio giusto, tu dici? Giusto. Quanti anni avevi esattamente, Marco? Allora avevo 36 anni. Ah, ma quindi non eri proprio un ragazzino? No, in effetti era una malattia proprio tipicamente giovanile, cioè giovanile nel senso 20-30 anni, ecco. Ok, ma scusa, ci puoi dire che tipo di cosa era, o preferisci evitare? Ah, un tumore. Ok, giusto, perché parli di cicli di chemioterapia e quindi di operazione. Quindi hai fatto tutto, hai fatto sì, la terapia, sì. Poi l'operazione. Quanto tempo è durata questo tunnel? Senti, tra una storia e l'altra è durata circa 6 mesi, perché praticamente noi si faceva una settimana in ospedale con la fare il ciclo di chemioterapia e una settimana fuori a casa a riposare, a recuperare, insomma. Okay. Dopodiché, quindi, già sono passate 8 settimane, più poi c'è stato successivamente l'intervento, quello famoso del 1 su 1000 ce la fa, Quindi in tutto sì, quasi un annetto. Senti, è più cinismo o è più un modo per esorcizzare la paura? Cantare uno su mille ce la fa? No, quando... è proprio solo ed esclusivamente per esorcizzare, assolutamente, non c'era cinismo, anzi, avevamo una paura folle, quindi proprio cinismo non poteva esserci. Ti ricordi qualcuno dei ragazzi con cui hai condiviso quel periodo? Vi siete mai più sentiti, vi siete mai più visti? Sì, diciamo che ci siamo continuati a sentire successivamente alle dimissioni, perché praticamente prima una volta all'anno, poi sempre più breve, facevamo dei controlli, quindi si veniva tutti a Milano e ci si trovava sempre, cercavamo sempre di concordare le date in modo da trovarci. Quindi però sempre in ambito ospedaliero, non è che avete fatto, che so io, un fine settimana alle terme insieme? No, abbiamo fatto qualche mangiata. Ok. Il cibo mi sembra la parola chiave anche di questa storia, come spesso capita. Cosa fai adesso, Marco? Sei in pensione, dicevi prima? Sono in pensione, sì. Da quanto tempo? Da giugno 2011. Quindi mi dicevi prima che sei stato... Non sei stato gentilmente accompagnato, sei rientrato, insomma, ti è andata bene? Mi è andata bene, assolutamente. Sono tra i pochi fortunati. Che cosa facevi prima esattamente? Ero dipendente di istituto bancario. Ok, quindi stavi allo sportello? No, ero all'interno, ufficio interno. Io non sono ancora riuscito a trovare, se non in banca, uno che ha lavorato allo sportello. Sai quando chiedi, ma che lavoro fai? Lavoro in banca. Ma allo sportello? No, sto dietro. Non ho capito se lo sportello è considerato una punizione o è, come no, dire, l'entry level. Lo sportello non è una punizione, è, diciamo, il primo approccio di lavoro. Ecco, poi successivamente, maturando un minimo di esperienza, vieni trasferito negli uffici interni. Senti, com'è stato l'impatto con la pensione, cioè con il tempo libero? Ottimo, guarda, non ne potevo più. Ah, ok, appartiene a quella categoria lì. Non vedevo l'ora. Ok, quindi insomma non è stato un trauma da oddio, adesso c'ho un vuoto, da horror vacui, insomma. No, nel modo più assoluto. Marco, io ti ringrazio ancora per la storia, per la chiacchierata, ti faccio in bocca al lupo per tutto e alla prossima, se hai voglia, noi siamo qui. Ok, ciao. Ringrazio. Ciao, grazie ancora, ciao Marco. Grazie, ciao. Donata mi scrive su... bello entrare così. Donata mi scrive sul profilo Facebook: nei periodi brutti della vita ho scoperto cose belle, ad esempio che sui veri amici puoi contare sempre e che in un modo o nell'altro tutto passa. Quanta saggezza c'è in quest'ultima frase di Donata, anche se in quest'ultima frase di Donata c'è un pezzo prima che dice in un modo o nell'altro, ed è sempre su quel modo o nell'altro lì che nascono i problemi. E invece mi arriva un messaggio su Facebook, sempre di Elisa, che mi dice: in ufficio noi aspettiamo ogni pomeriggio le storie che racconti e ogni giorno è come se mi mettessi in gioco ogni volta. Elisa, ti ringrazio per il messaggio. Io mi immagino queste persone in ufficio a lavorare, a non so che tipo di lavoro. Elisa, che lavoro fate? Che ufficio è? Che ore sono? No, c'è ancora lo sport. No, c'è ancora Carlo Getta. Aspetta un attimo, dello sport, ce ne frega niente. Perché non so perché nella mia fantasia sono tutte donne intorno a un tavolo a lavorare. E poi invece che ore sono? Dai, cominciano le storie. Poi invece arriva l'economia. Le donne sono interessate all'economia? Secondo me Elisa un po' sì. Anche se Laura Faggin di là fa una faccia. No. Laura, prenditi la responsabilità delle tue facce. 349-238-6666. Mi scrive Fabio da Genova, che mi dice, visto che parlavamo di malattia, quando la malattia è invalidante, l'unico modo per avere una vita dignitosa è trovare il giusto compromesso con i problemi che ti crea. Fabio da 29 anni ci prova e noi, per quanto possibile, ti facciamo gli auguri, Fabio. Io ricordo che noi siamo qua tutti i giorni, che potete quindi ascoltarci sia in diretta alle 16, sia in replica la mattina alle 5, sia in podcast ovviamente, o in streaming attraverso il sito o gli smartphone che avete con tutte le app disponibili. Voi però fate una cosa: continuate a raccontare storie, siate vulnerabili, non abbiate paura della vostra vulnerabilità. Sembra un predicatore così. Non abbiate... il Papa potrebbe dire una roba del genere, no? Potrebbe tirarla fuori Francesco: non abbiate paura della vostra vulnerabilità. Inviate storie, voi siete qui, @radio24.it. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina, ovviamente, senza la quale saremmo nulla. Grazie soprattutto a Marco, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, a Roma e la storia di domani è la mia. E parla di cani parlanti. Questa è la mia storia e io sono qui.